c'è qualcuno in ascolto, cambio! Ciuffi, ciuffi! Grazie. c'è qualcuno su 10? Hola, c'è qualcuno su 10? Hola? Vabbè, guardi tu se va. E qua era acceso, io stavo finendo di mangiare, era acceso, ma non ho sentito nessuno, su 10 nulla. Il PMR c'è qualcosina, ma niente di che. No, c'è da 10 minuti, da tanto tra poco devo uscire, se c'era qualcuno, adesso ho visto un segnale intorno alle 9.20, non so chi sia, avanti su 10 chi vuole entrare. Vabbè, ogni tanto c'è qualche portantina, non si capisce. L'altro giorno c'era un po' di confusione, non so se c'eri tu. No, ma me l'hanno detto. È portante praticamente. Come, scusa, cosa hai detto? Ho capito che c'era portante o giù di lì. C'erano contro una persona, infatti non capisco per quale motivo. Appena parlava lui, tu segnale molto forte, perché lui arrivava quasi alle 9.20 e questo era 9.25 e lo disturbava parecchio. Quasi tutti schiacciava, per cui non si capisce esattamente dove sia la zona. Non era laggiù, io pensavo fosse laggiù, perché quelli di giù hanno detto che arrivava a basso da loro. Sì, allora è la stessa che ho beccato io giorni fa e ce l'aveva con Giulio, sicuramente era contro di lui. Arrivava tipo a doppio room 7, a me 9 più 10, tondi tondi, a Claudio 9 più 25, è come se fosse in zona alta, soprattutto a zona vostra. E per avere tanta differenza, tipo verso Latte Dolce, sicuramente era in macchina. No, non ero mai in macchina, assolutamente, era un segnale fisso, magari qualche paesino, qualcosa di lì, vicino con qualche amplificatore. Qua arrivavano più 25. E Giulio usciva, riusciva a sentirlo sotto, molto disturbato, un pochettino riusciva a sentirlo di radio, però ti è presente, se quello là parlava lo schiacciavamo la mente. Infatti non capisco proprio con Giulio, che è una persona abbastanza educata e tranquilla, ma come parlava lui subito, tunk, c'era portante. Sì, esatto, la stessa cosa che ho sentito giorni prima. Oddio, potrebbe essere sì, qualche paese dei dintorni anche con lineare. Io, vabbè, davo per scontato che fosse una macchina da fermo, naturalmente. Tipo, non dico proprio Piazzale Segni, ma magari tipo via Ducali di Abruzzi, no? Cosa del genere. E vabbè, credevo di... vabbè. Secondo me non è gente che parla con noi nemmeno, cioè che parla al baracchino, magari c'è al baracchino per... sai, col Covid, ne abbiamo parlato a lungo. Hanno disotterrato apparecchi per mettere portante, e boh, perché gente nuova, in fin dei conti non è entrato praticamente nessuno di nuovo, giusto uno, due forse. Sì, ma la cosa è ridicola, Giulio è una persona grande, educata, c'ha esperienza, nel senso non l'ho mai visto rompere scatole a nessuno, cioè davanti a me lo conosco come persona corretta e rispettosa delle regole, per cui proprio con lui, cioè la cosa strana per dire, se parlavo io non me la metteva, parlava Claudio non la metteva, parlava chiunque, non la metteva, come parlava lui, tunk, è durato parecchio, poi alla fine sono uscito, ho lasciato perdere, perché i primi dubbi a me mi venivano, detto qua qualcuno del centro storico, zone così, che magari ha messo qualche amplificatorino, poi hanno dato i rapporti, quelli della parte bassa, ha detto se per dire a te arriva 9.25, a noi che siamo di lì in zona dovrebbe arrivare più forte, invece le arrivava a 1.7, poi ho sentito che a Giulio le arrivava a 5, 6, non lo so, non ho sentito tutto il discorso, perché poi me l'hanno riferito a me questa storia, perché a un certo punto sono andato via, però dico, vedi divertimenti. Eia, comunque Giulio da me passava, quel giorno che ho sentito io, allora il portante era 9 più 10 spaccato, Giulio 9 più 15, quindi passava lui. Comunque sì, è seccante questa situazione, poi ci sono malumori, che te devo dire, Robè, infatti certe volte preferisco ascoltare boh oppure non accendere proprio. Perché se anziché distrarmi entro al baracchino per avvelenarmi, meglio niente, mi dedico ad altro. No, assolutamente d'accordo, a me mi ha mai visto bisticciare con qualcuno, una volta solo, forse quando c'era il coronavirus uno ha fatto un commentino, come senso di superiorità è fatta la manager di Zendi, però è finito di lì il discorso, perché ha fatto una battutina, come che noi, che cacchio ascoltate voi che siete con questi baracchini, voi, baracchinetti, anzi ha detto. Detto, vabbè, tu gli hai detto, neanche ti immagini con cosa ascolto io, quando do certi rapporti di segnale, ed è finito di lì il discorso, non me ne ha fatto nulla, poi sono andato via, e dal giorno penso che non abbia più sentito questa persona, ma non me ne frega niente, anche se lo sento ci parlo, non mi interessa più di tanto, a me la radio, lo sai, cioè, se te ne sei accorto è un divertimento, se poi mi devo bisticciare non me ne vengo in radio per afferrarmi, a parte non ho carattere rissoso io, ne ho visto di tutti i colori per questione di sport, per cui già mi so difendere e poi so conoscere anche le persone, per cui nascondermi dietro la radio a me non mi piace, se ti avevo qualcosa dico mi vieni qua e ci diamo l'appuntamento e me lo dici in faccia. Sì, ma infatti non, per i baracchini non ci avrassi, no? Se no facciamo come facciamo Falcone, a voce, a urla. Che immagini, sarebbe proprio l'ultima spiaggia sarebbe. Sì, già lo so, ma ho detto anche qualcuno qua che si arrabbiava, se la prendeva a cuore, ma no, Sardina Futti, che non sono questi i problemi sono altri, non sono le portanti oppure che uno non ti fa entrare o cosa del genere, Futti Zin, se ti piace, io tante volte mi dire, vedo, ci sono delle persone che dire argomenti che non mi interessano, faccio ascolto, oppure mi sposto in altri canali ad ascoltare, ma no, non sono di quelli che devo entrare per forza, per entrare, per fare, molte volte io, a me piace fare molto ascolto e chissà quanti ce n'è come me. Sì, vabbè. Poi io l'ho sempre detto, a me piace più ascoltare mica parlare in fin dei conti, perché tanto se non conosco l'argomento va a finire che si sventia un po', non... capito, bisogna avere un argomento per portare, per passare la serata, se no alla fine così si scazia ma si parla di nulla. Bene, io adesso procedo con la pappatoia, sono arrivato al dolce, poi caffè, ammazza caffè e poi televisione. E anche questa giornata è andata, questa pallosissima giornata è andata. Ma tu entri anche la mattina, Marco? No, Robè. No, perché causa gravi problemi di sonno sregolato, io la mattina per me è tragico alzarmi, tragico, eh. Oggi vabbè abbiamo fatto un'eccezione perché dovevamo andare dal commercialista, poi già che c'eravamo, una spesuccia da Lidl, piccola, un caffè a piacere segno, io ho portato mamma a pascolare, insomma, siamo sempre a casa. Ma sempre le ore piccole quindi fai tu in radio? No, no, no, no, in radio no. No, raramente di notte stiamo, un giorno siamo arrivati alle 10 di notte, mi pare l'altra sera, ma sto lì, non sai cosa, io inizio a guardare film, telefilm, magari mi addormento in poltrona prima, no? Poi però dopo una certa ora, tipo dopo l'una, sopraggiunge una specie di come dire, di veglia forzata, non ho capito perché. Vabbè, tutto ha avuto origine da quando mamma era stata molto male, e quindi è come se dovessi essere sempre pronto a entrare in azione. Quindi mi spoglio all'ultimo momento, giusto prima di entrare a letto, e un macello, è tutto sregolato comunque, il sistema nostro. E per quanto io dica che tutto è poi alla fine è compensato, cioè ti alzi tardi, colazione tardi, pranzo tardi, cose già dette, già ridette, il corpo si accorge che non va bene, che non va bene, che è una cosa alterata, capito? Perché adesso fa buio presto, io sono più attivo, da quando fa buio sembro un vampiro, vorrà fare compagnia a Conte, capito? Che lo chiamano il vampiro. Ehi, ma quanti anni ha tua mamma? Quanti anni ha? Quanti? Spero, beh, volevo lasciare bianco, non sa che voglia entrare qualcuno. No, 77, non è eccessivamente anziana, però è un po' invecchiata male, vabbè. Un po' di fisico e non solo. Ma è indipendente, no, quindi è abbastanza giovane, no? Mio padre ne prende 10 anni, mio babbo ne ha 87, gli ultimi 2 anni sono pesantucci, dai, se li sta portando tutti in una volta, ma è tranquilla, nel senso si alza, cammina. Sì, quello sì, quello sì, si deve operare le anche per l'artrosi bilaterale, però già va in bagno tutto, eccetera. Diciamo è molto attiva quando deve fare danno, capito? Quando deve fare casino in cucina, tipo roba del genere, è molto molto attiva. No, vabbè, è importante, meglio attiva che passiva, nel senso allettata o cosa del genere, che devi farli cambiarla e cosa, già che si alza va a fare bisogni e fare cose, è una cosa importante quella. Sì, sì, sì, quello sì, quello sì. Però a momenti è un po' più sventiata, vabbè che anche il figlio non è che sia molto brillante di memoria di tutto, è così, poi vabbè, niente, niente. Ehi, ok, lasciamo un attimo di bianco, se qualcuno vuole entrare avanti, 10 che vuole entrare. Eccomi qua, buonasera, ciao, vabbè, ciao Marco, buonasera a tutti e due, avanti, riprendi Marco. E io, ciao Giulio, me. Stavamo accennando all'altro giorno quel casino portante eccetera, e comunque quindi ben entrato, ben sentito Giulio. Comunque Robè, io propendo più per un segnale in macchina, perché anche se fosse magari dei paesi del circondario con lineare, in zona via Baldetta un Santiago 7 è sempre troppo basso per essere una stazione fissa, per quanto lontana, per quanto lineare. Secondo me poi qualcuno l'antennino, qualche installazione temporanea, oppure uno in macchina che si sceglie un punto a metà strada tra me e voi, più verso di voi, che ne so, Viale Dante alto, mi viene da pensare a una cosa simile. Vai Robè. Ciao Giù, infatti ha parlato anche lui, ha detto stavo parlando male di te Giulio poco fa, a parte gli scherzi, no, stavamo discutendo di questo, ma io guarda in macchina è una cosa troppo strana, perché il segnale era stabile, e poi a parte se fosse Viale Dante qua arriverebbe 9.40 minimo, non è un segnale, è più probabile secondo me qualche paesuccio che noi siamo molto aperti magari in quella zona lì, e Claudio, perché a me a Claudio arrivava 9.25, posso dire Alghero per fare un esempio, dai, qualcuno mette un lineare da lì, qualche paese dell'Interland di lì, quelle zone lì, non sto facendo nomi perché non ho nessun pensiero di chi possa essere stato, in un primo momento io ho pensato fosse giù del centro storico, perché poi ho sentito una risatina per un attimo e ho detto boh, sembra un ragazzo o qualcosa del genere, poi mi avete detto che giù nella parte bassa arrivava a basso, ho detto no, qua può essere qualche paese, perché per arrivare un segnale di 9.25 in macchina e a voi arrivarvi 8, 9 quanto ne arrivava a Gianni è strano, o sei in una posizione un po' in mezzo ai palazzi, non lo so. E infatti ci sono troppe variabili, robe che non si possono calcolare, il watt, l'antenna, la posizione. Comunque io ripeto, sempre se parlo di baramobile intendo fermo, cioè con segnale stabile, eccetera. Ma è un mio pensiero, magari è tutto l'opposto. Vai Giulio, avanti. Ok, ciao Marco, ciao Roberto. Vabbè, non è un problema. Tanto il dispetto, Robè, non lo stava facendo a me, lo stava facendo a chi ascoltava, che non riusciva ad ascoltare. Perché il mio segnale, grazie a Dio, è quello che è abbastanza forte, per cui faccio ascoltare un po' da tutti. Quello lì è quello imbecille, di un paese tranquillo, senza nessun remore per poterlo dire, perché è di uno che compra il baracchino dalla Macedo. Perciò lo sappiamo che è l'unico segnale che a voi arriva 9.25 che riesce a coprire, stabilendo anche il segnale che arriva a me, che è arrivato a Gianni e che è arrivato anche ad altre persone, che è esattamente quello, e non si sfugge, è quel paese di Beduini che solo a voi arriva con quel segnale, Robè. Non lo so, io non voglio pensare male, non riesco a capire, forse riesco a immaginare chi stai dicendo tu, spero che non siano quelle persone, poi i nomi non è facile, perché quando non ci sono certezze uno può solo immaginare, ti ripeto, io ero convintissimo che fosse un segnale di giù, del centro storico, quei segnali che normalmente arrivano a 9.15, così poi attacchi qualche linearetto, ho detto magari arrivavo un po' più forte, però se a me mi arrivano le 25, a Giulio sarebbe dovuto arrivarli più o meno lo stesso segnale, ha già nel doppio room, meglio ancora, però dice che allora l'aveva molto più basso, per cui è nella direzione nostra sicuramente. Guarda, a me ne arrivava Santiago 7, ne arrivava, a Gianni ne arrivava Santiago 8-9, per cui il segnale non... Senta, mi ha detto. Questi qui sono i segnali dalla nostra parte, praticamente è il segnale che arriva sempre da quel paese dei deficienti, o meglio del deficiente. Ma Giulio, scusa se ti interrompo, non riesco a capire una cosa. Io per quanto ti conosco non vedo che sia una persona che dà fastidio, nel senso che si mette a fare, a creare problemi o zizzania. Per quale motivo, se fosse una persona che hai dei sospetti tu, perché ce l'aveva proprio con te, non riesco a capire. Buh, la logica è questa, perché tu mi dici ci sono quelli maleducati che rompono le scatole, che mettono portanti, allora dice beh vabbè te lo posso vedere io e te lo faccio io. Però da parte tua io non ho mai visto cose dispettose. Non lo so, bisogna entrare nel cervello malato di quella persona per capire certi atteggiamenti che assume. Per cui che cosa ci posso fare io se quell'imbecille? Però io continuo a dire, il dispetto non lo faceva a me, perché in linea di massima, dopo che sei andato via tu, era rimasto solo Claudio, era rimasto, ed era solo lui che non mi ascoltava, perché gli altri mi ascoltavano tutti, per cui io ritengo, e questo lo dico chiaramente e lo voglio anche sottolineare, il dispetto non è che lo stava facendo a me direttamente, sì è vero, metteva la portanza quando parlavo io, però il dispetto era praticamente a Claudio, perché lui non riusciva ad ascoltare. Io la penso in questo modo, voglio vedere con quale ragionamento o logico uno mi possa contraddire, questo che intendo dire, Robè. Buonasera a tutti, posso rispondere un attimo? Certo che puoi rispondere, ci mancherebbe altro qua. Ti ho dimostrato una frase che tu hai detto, che praticamente può uscire basso quando vuole e alto quando vuole, solo questo ti ha dimostrato, a me poi non mi ha fatto niente, a me non mi interessa, come vedi, io se riesco a ricevere e se c'è silenzio e si può parlare, parlo, se non si può, chiudo, ho finito di bisticciare con la gente per le portanti e per l'arroganza, non me ne frega proprio più niente. Però secondo me ti ha dimostrato che può uscire basso e può uscire alto, capito? Dimostrandoti che se vuole può dare fastidio e se non vuole può fare lo scemo, questo solo può aver dimostrato. Ecco, anche questa tua affermazione non fa altro che consolidare la mia idea. Io dico solo quello. Poi io non sto bestricciando con nessuno, perché non c'è quella persona che faceva l'imbecille, non c'è in frequenza, per cui non abbiamo fatto nome, non sappiamo chi è e chi non è. Però se permetti un minimo di sospetto lo devo avere, e io ce l'ho, e non solo io, perché poi mi sono contattato altre persone che ascoltavano in quel momento e hanno confermato la mia stessa idea, per cui vedi bene, poi magari può darsi che siamo tutti in errore, niente da dire, quello è possibile, però guarda, è molto ma molto difficile che ci sia un errore nel nostro pensiero, nel mio e in quello che le persone che ho contattato, tutto lì, avanti ancora Roberto. Ehi, vabbè, comunque, era soltanto una discussione abbiamo fatto, lasciamo perdere, stiamo parlando troppo, dai, giusto Claudio ha detto una bella cosa, finalmente, te l'ho detto tante volte, è inutile mattanare il cervello, lo stomaco, il fegato, la radio è un divertimento, prendiamola come si, perché anche tu all'inizio certe volte ti arrabbiavi, che ti dicevo sempre, ricordati, putti di nigra, lascia perdere, lascia vedere i giaramedi, perché poi dai giaramedi ci passi tu e tutti gli amici, quelli più cari che c'ha, per cui lasciamo perdere futtidini, dai. Discorso chiuso, parliamo di altro, vai Cla. Sì, ma come vedi, infatti io mi sono ritirato a tutto, non me ne frega proprio niente, però io non posso affermare quello che dice Giulio, per il semplice fatto che io nella posizione in cui mi trovo i segnali ce li ho molto alti, capito? Per quello Giulio ti ho detto, non lo so, ma il segnale era 9,25, rispetto a voi molto più basso, però è capitato già altre volte che qualcuno si è messo nella zona di via Milano ed è fondo scala, nella zona del Quadrato è fondo scala, capito? Perché purtroppo ce li ho davanti, con l'altezza che ho li vedo, quindi è chiaro che il segnale è molto più alto. Un 9,25 può essere di qualsiasi posto, per me, per il mio segnale, se su Concilie che Antonello e Claudio, la produttore, se mi arrivano 9+20, cosa ti devo dire? Cioè, è chiaro che non posso confermare quello che ti hanno confermato gli altri, ti posso solo dire che la ragione per cui può aver fatto una cosa del genere nei tuoi confronti e nei miei confronti, soprattutto, come hai detto tu, perché chiaramente io sto parlando con te e non ti sento, è chiaro che anch'io sono in grande difficoltà. Però è la dimostrazione valida di quello che pensi tu, al mio pensiero, dell'affermazione che hai tu e della sicurezza che hai tu, che può averti solo dimostrato, può aver dimostrato in generale che può uscire come un debole e può uscire forte e dare fastidio. Questa è la mia supposizione, non lo so. Comunque, ripeto, ribadisco, io sono fuori da tutti i discorsi, non mi interessa più niente. Ripeto, ribadisco che se si può entrare e fare due chiacchiere io sono sempre presente. Dal momento in cui vedo che le cose cambiano, io spengo la radio e vado a vedermi la televisione. Non mi sentirete mai più né a voce né a beneficiare con nessuno. Io quelle poche radio che mi sono rimaste, perché ho detto, ho venduto tutto, ho tolto le antenne, ho cercato di fare piazza pulita proprio perché non voglio avere più problemi con nessuno. Voglio vivere la mia vita sereno e pacifico, tutto qua. Quando un qualche ho, come ho avuto già un qui qua con Marco, ma Marco è una persona molto intelligente e mi ha capito subito, a me quando il qualche ho non mi interessa, io non lo mando a dire, ok? Il qualche ho non mi interessa, continuate pure, io rimango in ascolto, il qualche ho non mi interessa, me ne vado in un altro canale. Cioè non ci sono minimi termini, uno non si deve vergognare. Se c'è un qualche ho dove uno non può partecipare per mille motivazioni, nel senso che ci sono dei discorsi dove tu non hai una preparazione tecnica, è inutile che sei lì, ti rilanciano e non capisci niente, non sai cosa devi dire, ho assistito già a queste cose, allora preferisco, il qualche ho non mi interessa, proseguite voi, ciao, mi sfotto un altro canale, è così bisogna fare, non è che uno deve per forza stare lì, ascoltare le cose, o a ribadire, o a dire tronzate, non funziona così. Beh, ok, io rimango in quelli, sono intervenuto solo per dire questa cosa a Giulio, che secondo me è una cosa semplice ma molto, molto sincera. Ok, continuate pure e rimango in QRX. Avanti per te Marco. K, allora quando l'ho vista io, era il 2 novembre ed era il giorno che c'era Franco. Sicuramente era prima comunque dell'ulteriore corso, sì, comunque è giusto, poteva anche non aversela con Giulio, ma voleva chiudere la ricezione, era l'unico chiudibile di ricezione che era in alto, tutto lì, e poi alla fine non cambia nulla, dai, siamo sempre alle solite. Sì, ma infatti rilassi, no, assolutamente rilassi, non più. Se no, te l'ho detto, come te Roberto, facciamo tipo Falcone, ci mettiamo a voce, a urla, al baracchino. Ed è finito lo scopo, lo spirito della radio è morto. E riprendi Robè, che comunque faccio, dai, continuo, riprendi un attimino, vai Robè. No, infatti è giusto cosa cazzo stava, un paio di volte, ma almeno due volte di recente mi è capitato a me di calmare due persone che si stava finendo male la situazione, per incomprensioni più che altro, poi alla fine mi sono intromesso, mi pare c'era anche il testimone Claudio, una volta ho cercato un po' di ripacificare e poi è finito tutto lì, però forse anche quello che sta dicendo Claudio è giusto lo stesso, dice dimostra che è una dimostrazione di forza, nel senso che voglio anche io posso farmi sentire forte, solo così. Prendiamola come discorso, dai. Io sinceramente una cosa del genere non l'avrei mai fatto, preferisci dire mi adesso ho attaccato, come arrivo il segnale, mi se voglio vi schiaccio e boh, finisce il discorso lì. Sì, dimostrazione di forza che però poi non servono a niente, perché alla fine mette a portante uno ma non parla nemmeno lui e non ascolta nulla, e quindi è inutile. Riprendi Giulio che vado a pigliare roba dolce, dai. E almeno ti addolcisci e fai meglio. Ma io non ho bisticciato con nessuno e non mi sono nemmeno arrabbiato il giorno, penso un po' Guarda voi che a me me ne fregava il fatto che lui mettesse la portante. Intanto io, se volevo parlare, potevo parlare con tutti gli altri, c'erano tutti gli altri che mi ascoltavano perfettamente, per cui lo stesso Marco, che non è più in mia zona praticamente, che è più dalla tua parte o Robè, e ascoltava lo stesso, per cui vedi bene che a questo punto, ma siccome 2 più 2 fanno sempre 4, questa è la matematica e non cambierà mai, io ne sono convinto, e non ho fatto nomi, non ho incolpato nessuno, questo sia ben chiaro, io non ho incolpato nessuno, non me la sono presa con nessuno, so solo che un mentecato, perché per me una persona che fa una cosa del genere è un mentecato e basta, non può essere diversamente, e ho la piena fiducia in quello che ho sentito, che di segnali sia i vostri che quelli della zona mia, per cui poi tra anche da altri amici che ci siamo sentiti telefonicamente, per cui non è quello il problema, ma tutto sommato, ripeto ancora una volta, a me che vuoi che me ne freghi, dimmi tu che cosa me ne freghi o che cosa ha vinto, il solo fatto che lui voglia dimostrare che può essere con un segnale, può uscire con un segnale forte o con un segnale debole, spiegami che cosa ha vinto quando lui ha fatto una cosa del genere, qual è la soddisfazione che ha avuto, solo quello io vorrei capire, qual è la soddisfazione di questo imbecille che ha fatto una cosa del genere, tutto lì Robè. Vabbè, dai, finiamolo qua, comunque c'è stata per un attimo, c'era di nuovo con la portantina, per me che hanno fatto le prove, dai, no, inutile parlarne, ti stai anche già alterando un pochettino giù, futidini, lascia perdere, hai detto bene, concludiamo il discorso qua, facciamo ancora io qualche minuto di conversazione e poi devo staccare, che devo andare da un'altra parte, dai, di nuovo a te Giulio, Marco se vuoi continuare tu, avanti giù. Vabbè, se devi andare, vabbè, non c'è problema, io non ti trattengo sicuramente, perché ci mancherebbe altro, poi vedi tu, dimmi se vuoi continuare, perché Marco mi sembra che si sia sentato un attimino, Claudio a quando sembra si è messo in stand-by anche lui, Claudio ci sì. Sì Giulio, ma rimango in corrente, no, non ne ho voglia di parlare, dai. Insomma vedi c'è da una battaglia a influenzare, sono qua in Francia guardando la TV, ma non ne ho voglia di parlare, perdonatemi. Continuate voi e ci sentiamo in altre occasioni, dai. Va bene, d'accordo, Claudio. Il primo sono io, cioè, c'è un discorso che non mi piace, non entro, e l'ho fatto più di una volta, anche in questi ultimi giorni, come vedi sono abbastanza assente in questi ultimi giorni, entro, faccio qualche battuta e poi sparisco, per cui vedi bene, ma non è quello, questo non significa che io debba fare dei rispetti a chi ha voglia di parlare, ecco, mi sembra abbastanza evidente che non ci si deve comportare come ha fatto quella persona lì, se la persona la vogliamo considerare. Io dico che è un animale, poi ognuno la pensi come crede. Vai Robè. Brecco? Sì, avanti il Brecco. Buonasera a tutti, Lucky Fortunato qua, coordinate Vivo Via l'Italia. Io, come stanno qua gli amici miei, io ho solo un pezzettino per salutare. Riprendi, che non mi ricordo il nominativo. Allora, in compagnia di Roberto, ciao Fortunato, ben sentito, in compagnia di Giulio e Claudio, torre di controllo in Quarrix. Avanti Giulio per i saluti a Fortunato. Ok, ciao Fortunato, ben ascoltato per l'ennesima volta. Mi fa sempre piacere ascoltarti, avanti Fortunato. Sì, ciao Giulio. Ho sentito che... Caspita, si fermano qua senza triangolo, sta allucinante, luci spente. Madonna. Sì, ho sentito che c'è anche Claudio. Claudio? Ciao, Fortunato, un abbraccio. Sono in QRX e non ne ho voglia di parlare. Ben sentito, vai. E buon rientro a casa. Sì, grazie Claudio. Anch'io, dai, sempre per un piccolo tratto di strada qua per salutare gli amici. Mi prendi Giulio, fai girare e con questo passaggio io vi saluto. Ok, allora ti saluto anch'io, allora Fortuna, alle prossime e ti ringrazio per essere entrato a salutare, dai, ti faccio ascoltare Roberto così ti saluta anche lui, avanti Roberto. Ciao, Fortunato, mi hai sentito come al solito, non c'è problema, anche io devo staccare, adesso devo andare da un'altra parte. Allora, di nuovo saluto generale Fortunato, Giulio, Marco se sei ancora in ascolto e Claudio, ci sentiamo alle prossime, ciao ciao. Ok, ciao Roberto, alle prossime, sono rimasto da solo, ci sentiamo allora, ciao a tutti, anche io allora rimango qua ricchi, oppure spazzolo e vediamo un po' se c'è qualcuno, e se non c'è qualcuno, stanotte dormo lo stesso e mangio ugualmente. Ciao a tutti di questo canale, ciao. Ciao, ciao Giulio. Io sono qua che vado e vengo, ciao Roberto, ciao Giulio, ciao Claudio, Lucky Fortunato, un saluto a tutti anche alle ascoltoni, dai, sentiamo in migliori occasioni, ciao ciao a tutti, Giulio guarda il video. Ok, ciao Marco, ci sentiamo, ciao Tino. Anche Tino c'è. Mi è sembrato di sentire Tino, non so se ho capito bene la sua modulazione, non lo so. Avanti, Tino sei tu? No, non è Tino, vabbè, non lo so, sarà qualche altro, allora saluto neanche a lui. Ciao, chiudo. E io, ciao, ciao a tutti, ciao ciao. Comunque Claudio, se sei ancora ascolto, abbiamo fatto tante discussioni e questo è sempre un modo per chiudere definitivamente la frequenza. Quando uno si comporta in quel modo, cosa succede? Che la gente si allontana, come è sempre successo e come continuerà a succedere. Vabbè, ciao Claudio, con quel Rick, ci sentiamo. Ciao Giulia, ciao, un abbraccio. Non me la prendo più io. Già, come hai detto tu, mangio, bevo e dormo lo stesso. Ciao. Ok, ciao, ciao. Delinquenti assassini. Ce n'è gente del governo qua. Ce n'è. Prego.